Negli studi di Via Zanardi per questo piccolo spazio, sono le 7:49, a breve la rubrica in mostra. La rubrica in mostra sarà un po' particolare, ma ve ne parlerò dopo l'incipit. Già questo giovedì è particolare, di solito l'incipit andava nella giornata di mercoledì e tornerà ad andare nella giornata di mercoledì. Ringrazio Silvia Pioggia per questo spostamento, anche se la rubrica in mostra, di cui vi parlerò con una breve introduzione, avrà diverse sfaccettature e unicità per giovedì 13 aprile, dalla musica all'intersezione con altre rubriche, all'anticipazione, all'artista anche protagonista che troveremo a Ravenna. Ve ne parlerò dopo questo incipit che va oggi di giovedì. Del resto, come ho detto, anche nella rubrica principale a regola d'arte, come ogni giovedì, ci saranno incursioni letterarie e particolarità musicali. Intanto ascoltiamo l'incipit, torniamo in diretta, diamo introduzione alla rubrica in mostra e procediamo con la nostra prima colazione in diretta. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Approfondendo la questione dell'incipit, ho scoperto che ci sono vari tipi di incipit. C'è quello descrittivo, quello narrativo, oppure quello in media res. Ci sono vere e proprie teorie sul valore e l'importanza di questa prima parte del romanzo e della sua influenza sul lettore nella scelta. È quindi un tema che riguarda sia addetti ai lavori che non. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete se e quale libro leggere? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi nei quali mi sono imbattuta in libreria e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni di lettura. Questa è la prima pagina di La sicurezza degli oggetti di A.M. Holmes. Hélène porta i bambini in Florida e li lascia lì come una busta di vestiti in una tintoria. «Ci vediamo fra 10 giorni», dice mentre le fanno ciao con la mano nel termine dell'American. «Fate i bravi!» Dà un bacio sulla guancia alla suocera e sentendo la pelle ruvida di lei contro la sua, immagina questa donna come, letteralmente, la mappa genetica di suo marito, fino alla barba. «Vai!» le dice la suocera, spingendola verso il gate. È la prima volta che lascia i suoi figli così. Risale sull'aereo pensando che in lei c'è qualcosa che non va, che dovrebbe avere un motivo più valido o programmi migliori per le vacanze. L'Europa, non Westchester. Paul la sta aspettando all'aeroporto. È stato lì tutto il giorno, dopo averli accompagnati stamattina. Ha preso possesso dell'estremità ovest della sala d'aspetto e ha passato la giornata lì, a lavorare. Hélène lo sa, perché l'ha fatta cercare con l'altoparlante all'aeroporto di Miami per ricordarle di portare a casa un po' di arance. Sembra più giovane di come se lo ricordava. Gli brillano gli occhi e assomiglia un po' a Charlie Manson prima che si lasciasse andare. Hélène è sicura che ha di nuovo fumato erba. Immagina Paul che si chiude in un gabinetto dell'aeroporto con la sua pipetta e un tipo che è stato cacciato da un volo per Los Angeles. Ma come inizio non è niente male, direi che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Quindi, come on my readers! Questione la sicurezza degli oggetti, grazie Silvia. Intanto abbiamo spostato la rubrica in quanto la presentazione in last minute letteraria che sarà alle Torri dell'Acqua per questo sabato del lavoro Io non mi trucco di Simona Arcantelmi, Le Flaneur editore, ha preso inizio per la puntata del Voltiamo Pagina di ieri. Traslata nella puntata odierna, ora due parole su questa strana puntata particolare della rubrica In mostra. Il protagonista è Alberto Burri, che per me è stato un grandissimo artista. Sarà a Ravenna nella ottava biennale di mosaico contemporaneo. Il MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna, presenta l'esposizione Burri Ravenna Oro. La presentazione è avvenuta qualche giorno fa, ne ho avuto la possibilità di registrare alcuni interventi, fra cui quello del presidente Fondazione Albizzini Collezione Burri e il direttore stesso del MAR, che sentiremo tra pochissimo. Allora, per presentare tale artista ho approfittato anche per aggiungere una colonna sonora particolare, anche vista l'unicità di Burri, la sua amicizia con Giuseppe Berto, per me uno tra i più grandi scrittori italiani di tutti i tempi, ma di questo poi ne daremo qualche lettura tra un motivo di conversazione e l'altro. La mostra deve ovviamente ancora aprire, ne diamo un'anticipazione, ora il tasto un po' dolente o particolare. La rubrica, che è iniziata come microsuoni e microsensazioni, ha un ascolto chiaramente, ma ovviamente, ed è comprensibile, anche motivo di critica, perché sono altri suoni, sono canzoni, musica, composizioni, strutture che hanno una particolarità che comprendo può risultare ostica. Quello che ne è poi è chiaramente una particolarità che non ascoltate, non avete la possibilità di conoscere. Ammetto il timore, ma altrettanto coraggio per far conoscere certe case discografiche e certi compositori, certi artisti, e in questa puntata ho deciso di portare le sonorità minimal techno, glitch, classic, contemporanee, jazz di Fernando Corona, un autore messicano che ha il nome d'arte di Markov, incide per la label Leaf Record, almeno per quanto riguarda le sue prime produzioni, darà commento a queste superfici, darà commento sia dal punto di vista ritmico che melodico alle superfici, agli spazi, all'aspetto materico di Alberto Burri. Ecco, ok, non è per mettere le mani avanti, però insomma anticipare determinati contenuti magari è sempre secondo me giusto, e chiaramente non per mettere in guardia, ma anche per dare una presentazione di quello che sarà a breve. Un po' di musica con gli Heliocentrics e Lloyd Miller, da questa strana colonna sonora, così già iniziate ad avere un po' un assaggio, e rientrando con la rubrica in mostra, Alberto Burri, Ravenna Oro al Mar, al Museo d'Arte della città di Ravenna. Tutto ciò tra pochissimo sui 103.1. Thank you.